Vabbè, quello che c'è. Per tutti i gusti, tutti i gusti, tutti i frutti. È scotta. È scotta. Un mondo massacrato da parassiti marci, sacalli senza testa, coperti da rifiuti, cervelli così vuoti da volere costruire come deve controllare le sistemi, lanciati verso il vuoto con la nostra ambizione di creare un mondo comodo ai nostri piedi, tra il buio e la punta di queste illusioni. Ancora c'è chi crede nell'avanzata divoratrice, avanzata ad occhi chiusi senza mani per parare, un impatto inevitabile contro un muro di cemento, fino a quando non vedremo la fine avvicinarsi, continueremo a sprofondare. Trasciniamo insieme a noi tutti gli esseri viventi, credendo che ogni cosa debba essere sfruttata. Ci mettiamo in alto senza riuscire a capire che tutto ciò che distruggiamo siamo noi e il mondo intero. Bruttiamo e succhiamo tutto quello che vediamo, rendiamo arida la terra come l'anima. Bruttiamo e succhiamo tutto quello che vediamo, rendiamo arida la terra. Ah! È fatta! È fatta! È fatta! Basta! Arriva la terra dove ora camminiamo, rovine del passato circondano le strade per ricordare quasi quello che siamo stati. Virus controllabile e mortale, ora siamo in pochi a vagare disperati, a cercare i morti al fine di nutrirsi. Qualcuno ancora avanza per un pezzo putrefatto da colori petroli spariti, piante avvelenate sono poche e dannose, è stata la reazione alla merda che abbiamo prodotto. Pochi animali sono creature modificate, sopravvissute ai test dei laboratori. Questo è quello che è rimasto dell'avanzata umana, un mondo devastato, massacrato e morto. Uomini perduti che mangiano carogne, piante avvelenate, animali sono estinti. È fatta!